Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Come ogni giorno entro nelle vostre case per iniziare insieme a voi una nuova giornata, sono consapevole, per questo grandemente onorata di avere questo privilegio. Il mattino, al risveglio, è l'ora delle confidenze. Quando ci svegliamo raccontiamo alle persone che amiamo e che vivono con noi i nostri sogni, i programmi della giornata, le sfide che dobbiamo affrontare. Condividiamo le nostre sicurezze, le nostre insicurezze, parliamo di quello che ci sta a cuore, di quello che preoccupa il nostro cuore. Bene, in questi giorni immagino che una parte considerevole dei nostri pensieri sia occupata dall'emergenza coronavirus. Sta diventando quasi un'abitudine andare a leggere di primo mattino le news sul SARS-CoV-2, questo è il nome di quello che noi ormai chiamiamo familiarmente coronavirus o corona. Un virus che è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità, cambiandone i tempi e i ritmi. Le misure che ci vengono imposte ci limitano, ci vanno un po' strette, molti di noi si chiedono se siano davvero necessarie, e credo che per iniziare la giornata potrebbe essere utile proprio partire dal senso di queste misure. E questo credo che sia un passo importante, fondamentale per comprendere, per capire e quindi per responsabilizzarci. Buongiorno al professor Marcello Ottavio, che è in linea con noi, direttore dell'infettivologia all'azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e presidente della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Professore, il coronavirus sta cambiando le nostre vite, ma dobbiamo imparare a convivere con questo virus, a prendere un po' le giuste misure. È importante mantenerci in equilibrio evitando di sottovalutarlo o di sopravvalutare il problema. Partiamo da qui, che è un messaggio che come SIMIT ai nostri microfoni avete dato più volte nel corso delle finestre che abbiamo organizzato la scorsa settimana per monitorare e aggiornare sulla situazione del coronavirus e rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori con l'aiuto degli esperti della SIMIT. Vogliamo cominciare con qualcosa di positivo? Come abbiamo sempre fatto, professore. Certo, con quello che il coronavirus ci sta insegnando come società civile, ci sta insegnando a essere più rispettosi, a dover essere più rispettosi della nostra salute e di quella altrui. Se vogliamo evitare di incontrarlo per la strada e subirne le conseguenze. Quindi la parola bella a cui ha fatto riferimento prima, responsabilità, è un po' al centro di tutte le strategie che riguardano il contenimento di questa epidemia. Quindi quando si parla di responsabilità verso la nostra persona, verso gli altri, si parla di comportamenti igienici appropriati, e se vuole entriamo nei dettagli. Sì, io credo, professor Ottavio, ne parliamo, ne sentiamo parlare, ce le raccomandano, ma tutte le volte che sentiamo ripetere tanto le cose si spegne un po' l'attenzione. È vero, è vero. Per quello che piuttosto che entrare nei dettagli è meglio richiamare le persone al senso di responsabilità, come dicevamo, e a pochi concetti. Sì. Ovvero proteggiamo le nostre mani, teniamole pulite, teniamole lontane da persone che possono essersi ammalate, e teniamole lontane dalle nostre mucose, che sono le porte d'entrata per questo virus. Bocca, naso, occhi. Bocca, naso, occhi. La mascherina dà una protezione parziale e illusoria, perché potrebbe convincerci che con quello abbiamo risolto i nostri problemi, ma restano le mani, restano gli occhi, resta il prima e dopo la mascherina, per cui è preferibile usarla soltanto se si è ammalati e quindi per proteggere gli altri. Professor Ottavio, e poi la distanza? La distanza dovrebbe essere di 1-2 metri. Diciamo che una volta si riteneva più che sufficiente un metro di distanza, il braccio tipicamente della persona. Diciamo un braccio per uno fa circa 2 metri, quindi direi che questa è l'indicazione più recente che abbiamo ricevuto, e possiamo soprattutto in questo momento attenerci a questa misura di sicurezza molto sicura, appunto. Professor Ottavio, sono passate 2 settimane da quando è stato individuato il paziente numero 1, sembra passata un'eternità, ma mi chiedo, 15 giorni all'incirca. Per un'epidemia, che cosa sono? Beh, per un'epidemia al giorno d'oggi sono tanti, perché abbiamo accorciato le distanze in mille modi. Basta pensare che con un solo viaggio aereo si può contaminare un'intera nazione. Questo era già successo con la SARS e succede regolarmente anche con questo tipo di virus. Quindi è vero, in due settimane è cambiato tutto, ma in realtà era cambiato prima. Quello che ci sta insegnando l'epidemia è una parola grossa, i focolai epidemici che si sono accesi nel nostro paese sono chiaramente espressione di infezioni che sono avvenute prima che noi intraprendessimo tutte le misure di contenimento. Quindi non c'è da cercare colpe o distribuire colpe. Il virus circolava in maniera decisamente silente nei mesi scorsi e poi a un certo punto si è acceso, si è manifestato, proprio perché è cresciuta notevolmente la nostra attenzione nei suoi riguardi. Professore, ci chiediamo tutti, a proposito di tempo, quando e che cosa ci farà dire di avere un po' scavallato, no? Il punto critico, insomma, quando potremo pensare di avere dei segnali positivi e quindi dell'efficacia delle misure che sono state messe in atto, o poter dire ecco, il peggio è passato. Quando comincia la discesa, ovvero quando il numero di casi diminuisce, quando cominciamo a svuotare i reparti, soprattutto quelli di terapia intensiva, ecco, quello sarà il segnale più bello da poter dare alla popolazione italiana, che non è tutto finito, ma si comincia a vedere la fine del tunnel. In questo momento la fine del tunnel non si vede, ma questo non vuol dire che sia lunghissimo. Potrebbe anche essere vicino a noi, solo che c'è una curva e non lo vediamo. Direi che è prudente aspettare, ma essere ottimisti. Essere ottimisti. Professor Tavio, andiamo ai sintomi. La tosse, la febbre, molti ascoltatori che sono intervenuti con le loro domande ci hanno aiutato a fare un ottimo lavoro, perché abbiamo col vostro aiuto risposto a tutti i dubbi, tutte le domande, e quindi abbiamo cercato di fare chiarezza. Molti ascoltatori ancora scrivono: ma diteci quali sono i sintomi sospetti e anche diteci se è vero che anche il paziente asintomatico può trasmettere il virus, a che cosa devo fare riferimento. Professor Tavio, sono domande che ricorrono spesso, a cui vorremmo avere delle risposte, delle indicazioni chiare. Certo, direi che il messaggio forte è quello che riguarda la febbre. Praticamente tutti i casi si manifestano con una febbre associata ad alcuni altri sintomi simili influenzali, come li chiamiamo noi, quindi qualcosa, una stanchezza abbastanza pronunciata, a volte la tosse, che è espressione di una interessamento delle vie aeree superiori o inferiori. Il problema è quando sono interessate le vie aeree inferiori, ovvero il polmone, perché in quel caso il rischio è quello che ci sia o che possa innescarsi una polmonite, e quella è la fase più delicata della malattia. Ma ci sono dei sintomi, dei segnali che durante il decorso della malattia possono far capire che la situazione sta peggiorando in modo importante? Direi che il sintomo che maggiormente preoccupa i medici e quindi anche i pazienti è quando la persona comincia ad avere il respiro corto. E quindi questo è il sintomo che deve allarmare, che deve indurre la persona a entrare in contatto con un sanitario, prima di tutto telefonicamente, spiegando quella che è la sua situazione, in modo anche da preparare i sanitari che lo accoglieranno nel pronto soccorso o direttamente presso le malattie infettive o comunque un altro reparto, ad accoglierlo con i dispositivi di protezione che sono indispensabili per evitare di propagare l'infezione al personale sanitario, che sarebbe una situazione disastrosa, perché ovviamente questo renderebbe molto più difficile l'assistenza a questi pazienti. Professor Tavio, allora, oggi iniziamo insieme la giornata con lei, con quale predisposizione d'animo? Ma direi con una predisposizione d'animo a aiutare gli altri, a essere generosi, ad accettare le misure, diciamo, di contenimento che ci sono state proposte, non dico imposte, che ci vengono proposte, fortemente, ecco, suggerite. E rispettarle, diciamo, è un gesto di altruismo. Professor Tavio, oggi il Sole 24 Ore si presenta in edicola con la guida antipanico per la malattia del nuovo secolo, una guida ricca che affronta il tema del coronavirus sotto diverse prospettive, economica, sanitaria, e in cui gli esperti della CIMIT hanno partecipato. Sono infatti riportate le risposte che gli esperti della CIMIT hanno dato agli ascoltatori, che ci hanno aiutato la scorsa settimana a raccontare il coronavirus proprio attraverso le loro domande. È stata una bellissima esperienza, e quindi, professor Tavio, anche voi come CIMIT siete in edicola con il Sole 24 Ore, a cui avete dato questo bel contributo anche per la realizzazione di questa guida antipanico per la malattia del nuovo secolo. Imperdibile, non la malattia, la guida, dico. Professor Tavio. È un bellissimo giorno anche per noi, infatti, perché siamo felicissimi di avere contribuito alla realizzazione di questa guida con una testata prestigiosa come il Sole 24 Ore, per un problema che ha una dimensione economica drammatica, per cui se possiamo portare un po' di chiarezza, un po' di serenità, un po' di fiducia grazie al sole, lo facciamo veramente con il cuore, e ringraziamo. Insomma, facciamo squadra. Radio 24, il Sole 24 Ore, la CIMIT, tutti naturalmente i colleghi che hanno partecipato, hanno scritto questa bellissima guida che io vi invito a cercare in edicola. Buona giornata al professor Tavio, buona giornata a voi. Noi ci sentiamo come sempre a mezzogiorno e poi ci vediamo in diretta Facebook.